Cercavo le ultime sigarette rosse che sono sul posacenere. E il ricordo che ho di te non è stato inutile, ma quanto è bello piangere nelle notti gelide, fredde come l'Everest. Guardo il mondo in me, quello che mi hai detto tu non aveva senso, ed è per questo che io sento che sono nello, ritrovo me. Quante volte ho perso il senso, che esco e cado di più. Non sono certo se sto dentro o sento lui. Bitches, non mi fare male, mi sai entrare nelle pari. Sei la neve sopra il mare, nelle notti più glaciali.